sono cose che non ti dirò mai, quelle promesse che so io non manterrei. Ci sono parole che si nascondono dentro un respiro ed un no. Vorrei che ora tu fossi qui con me, sarebbe facile parlare senza di parole. Io ti respirerò se vuoi, dentro i miei giorni ci sarai. Le cose che non ti ho detto ora le ascolterai. Se sai tremare ancora, se vuoi sfiorare di accarezzare. Ci sono momenti in cui riaffiorano tutti i ricordi che non si cancellano, momenti che si comprendono, tutti gli errori che io